Manfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Qual è la sua bugia? Vediamo se lei è l'Ulisse de Genere. Stavo ascoltando per caso la vostra trasmissione, di solito seguo un'altra radio e mi sono incuriosito. No, la mia menzogna più grossa è stata quella di convincere mia sorella a vendere la macchina e ipotecare la casa per i miei presunti problemi con le tasse, e in realtà me la passavo con un trans qui a Firenze. Quindi lei si è pagato il suo godimento con il trans turlupinando la sorella, poverina, sì, che e facendosi dare i soldini strappati dalla bocca dei nipotini di sua sorella. Esatto. Addirittura mia nipote ha dovuto mettere una firma, lei lavora in un albergo, una fideiussione per continuare a permettermi questo mio giochino, insomma. E la cosa buffa è tutte le volte a Natale che mi vogliono bene dell'anima, perché gli sparo delle cavolate in questa maniera, in realtà me la spasso alla faccia loro. Quindi lei ha perfetta consapevolezza fatto che... Ripeto, lo faccio apposta forse. Sì, lei... Per il gusto, perché da piccino mia sorella mi picchiava spesso, lei è più grande di me, e allora ho deciso in qualche maniera di fargliela pagare e la faccio bollire a fuoco lento in questa maniera. Flavio Pagano, è d'accordo che qua abbiamo una sorta di Ulisse moderno? No, assolutamente no. Abbiamo chiaramente davanti un tipo Munchausen, insomma. Ad esempio? Anzi, dovrebbe accostare, rallentare. Mi sembra di aver capito che sia in auto. Sì. Ma io mi auguro, voglio dire, che naturalmente si tratti di un'invenzione, e credo che questa bellissima, però divertente, vista come invenzione, molto divertente... mi farebbe più pensare alla tipologia, diciamo, incarnata dal barone di Munchausen, cioè... Quindi Manfredo sta mentendo, ha radicalizzato... La cosa vera che ha detto è che non stava sentendo Radio 24, ma ci è arrivato per caso, secondo me.